www.radio3pod.rai.it. Prima l'uovo, la gallina, le penne o i calamai. La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non cuoce quasi mai. E mentre nella fabbrica di polli convivono ormai diverse realtà parallele, Kappa e Drago osservano il temporale. La pioggia, Drago, la pioggia. Sì, la pioggia, Kappa, una bella menata, però poi smette. Sì, però in questa nostra versione non smette mai. Io non ricordo altro che pioggia. No, io ricordo anche nebbia oltre che pioggia. Un viaggio in macchina nella nebbia fitta. Noi che ci perdiamo in autostrada. Un pollo meccanico che parla e che ci dice di seguirlo. Proprio qui. E poi questa pioggia. Pioggia. Pioggia. Gocce. Pioggia. Gocce tutte uguali. No. Come no? No, sembrano tutte uguali a forma di lacrima. No, Drago, quelle più piccole sono quasi sferiche. Quelle più grandi invece sono molto più appiattite, a forma di calzino corto vuoto, capito? Ho capito. E quelle più grandi invece sono a forma di paracadute. A forma di paracadute, ma guarda. E in media le gocce hanno 1 o 2 mm di diametro, ma poi ci sono le eccezioni, come le gocce registrate in Brasile o nelle isole Marshall nel 2004, che avevano più di 1 centimetro di diametro. E ora, un estratto dall'opera omnia di Gabriele D'Annunzio. Odi, la pioggia cade sulla solitaria verdura. Salata, fioc, sedere, Oh, la fabbrica di polli, polli. Polastri! Cosa c'è? Pollo in sbattimento. Sono in sbattimento. Appunto. Vabbè, sai che novità. No, ma stavolta è una cosa seria, Sono davvero spaventato, Cosa c'è? No, ho paura del contagio, Ma quale contagio? Dai, adesso siamo di nuovo qui. No, ma senti il cuore come batte, Il cuore? Starai mica infartando di nuovo, no? No, magari, forse solo questo. Ah, magari, Potrei avere anche il Douglas. Ma perché? Dai, ti sei svegliato con il bisogno di andare a letto con la portinaia che ti lavava le scale? Ma no! Molto peggio! Col portinaio. Ma no! Mi si è ammalato Tarek! Di Douglas? Sì, di Douglas! Ah, cioè Tarek ha sempre voglia episcopale? Sì, è incontenibile, Come incontenibile? No, una roba terribile! Guardatelo là, lo vedete? Anche con quella vecchia gallina moribonda! Episcopale! Ma lasciami in pace, Giovinastro! Ho appena subito un'isterectomia per via addominale! Scusa, Pollo, il Douglas è contagioso? Io non lo so, No, però qui è come l'aviaria, Cioè? Cioè, nessuno sa niente. E quindi è meglio stare tranquilli, Cioè, per sicurezza, meglio pensare al peggio, No, ma... Comunque, Pollo, stai tranquillo. Kappa soffre di Douglas da anni, ma non me l'ha mai attaccato, quindi... Questo, Drago, tu sei un caso conclamato di Douglas, quindi cosa parli degli altri? Chi, io? Tu, ma vogliamo tirar fuori la storia della gallina cinese nana con cui passi le tue ore dopo 10:30? Ma quale gallina nana cinese, dai? Sì, Drago, Ma vuoi negare l'evidenza? No, Pollo, tu stai zitto, dai. Ma se ti svegli sempre nel pagliericcio e che hai sempre il becco pieno di piume gialle, io? Ma io non so niente. Guarda che io sono soltanto una versione del drago che conoscete. Non so di che cosa state parlando. Sì, sì, ma guarda che dicono tutti così dopo che sono stati con la nana cinese, eh. No, guarda. Sì, che poi a me personalmente quella lì non mi piace niente. Ma perché? No, io non lo so, però c'è un mucchio di polli che la trovano attraente. Ma... sarà mica per quell'aria lì da bambolina in difesa, eh? Beh, sì, Polo, anzi, sai cos'è quello? Un senso di superiorità, un senso perverso di superiorità razziale. Cosa stai dicendo, Drago? Con lei è come ritornare a essere imperialisti, no? Ci si sente di nuovo europei, potenti, al centro del mondo. E ogni episcopata con lei è come rievocare la carneficina colonialista. La cosa? La carneficina colonialista! La fabbrica di polli. Ecco qua un uomo, per Dio, un vero uomo. Qualcuno ha voglia di aprirmi il conto, anche un Monte Carlo. Chi non si sbronza, per Dio, me la faccio vedere io. Lo sistemo io per le feste e gli fico il naso nel buco del culo. Passeranno malnutriti. Senti, capa, la temperatura della fabbrica si sta rialzando. Hanno aggiustato la caldaia. E infatti Büchner è di nuovo se stesso. Senti, bello, vuoi che ti strappi un po' quella lingua per avvoltolartela intorno come un salame? Beh, dai, insomma, questa frase non è da lui, no? Ma come no? È tratta dal Wojciech, pagina 93 dell'edizione Marsilio, in commercio al modico prezzo di 12 euro. Reclame! Tradotta da Claudio Magris, tra l'altro. Claudio Magris ha tradotto anche la cosa del buco del... Del? Del culo. Ma certo, è Büchner, Büchner al 100%. Vedi, allora vuol dire che la febbre gli fa bene, continua a scrivere come prima. Sì, gli fa bene, sì, però non dice mai niente a proposito di Amoghele. Ma che ne sa Büchner di Amoghele? Ne sa. Ma dai, sui motori di ricerca le voci affiancate Amoghele e Büchner... Vedi, non producono risultati. Beh, ma non vorrai fermarti a quello che dicono i motori di ricerca. Se fosse così, un concetto, un termine, una persona che non è elencata nel motore di ricerca non esisterebbe. Vabbè, in effetti è quasi così, no? È quasi, hai detto bene. Nel caso di Amoghele la pista è esoterica, Drago, e quindi non puoi pretendere che dei veri esoteristi abbiano un sito dove spiegano per bene tutti i loro segreti custoditi da secoli. Nel caso di Büchner ancora non sappiamo quale versione di Büchner è sopravvissuta nell'immaginario dei contemporanei. Non sappiamo se è quella del Wojciech o quella di Porca Eva, signor Tambur Maggiore. E dipende anche dalla versione di internet presente nella nostra versione attuale. Quindi, insomma, ci sono un sacco di variabili. Io non so tra l'altro che versione sono adesso io di me stesso. Quindi è tutto chiaro, no? E quindi? Quindi siamo al punto di partenza. Però stiamo imparando a memoria il Wojciech. Perché tremi? Hai freddo? E tu sei calda, molto calda, no? Anche le tue labbra così calde e il tuo respiro, quel tuo fiato caldo da puttana. Sì, da vera puttana, anche se andrei all'inferno pur di baciare ancora quelle labbra calde di puttana. Sì, stiamo imparando memoria il voice, che non è certo una materia educativa, Das. Non vuoi morire? No! Sei morta finalmente! Puttana! Che cosa succederà adesso? L'uxoricidio di Wojciechiana memoria sarà imitato pedissequamente dagli abitanti della fabbrica? E se sì, le galline moriranno con dolore? Lo saprete solo sintonizzandovi domani a mezzanotte su Radio 3 per il prossimo Serial Killer Orienti d'allestimento de... La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude mai. La fabbrica di polli produce, non muoce quasi mai. La fabbrica di polli, un programma di K e Drago prodotto dall'Istituto Barlumen.